Seduti di fronte al cadere del giorno, le nuvole rosse cullate da un vento che volteggia d'intorno e che soffia in alto le vallate leggero. Lui si tolse il cappello, poi gli chiese guardando distante: conosci qualcosa di ancora più bello del tramonto o del sol levante? In un tempo dove vincono gli inganni, in un tempo dai piedi pesanti, tu non guardare il passare degli anni, senza sogni non puoi andare avanti. Ricorda di spingere in alto i pensieri, più in alto di queste tue mani. Non scordare i racconti di ieri per poter raccontarli un domani. E quando arriverà il tempo di urlare a gran voce la rabbia per quello che taci, non dimenticare di essere come un bel soffio di vento su un mucchio di braccia. Come un bel soffio di vento su un mucchio di braccia. Quante stelle nel buio lontano, ultima corsa dell'ultimo treno, poi quel vento lo prese per mano, aspettando di nuovo il sereno. E se un giorno tu vorrai venire a trovarmi, chiudi gli occhi e prova a immaginarmi sopra quel vento che soffia distante il sereno.